siamo nella rivolta, cantando cueca chilena, sì, ay, ay, ay. Cantando cueca chilena, sì, ay, ay, ay. Il popò lo si è svegliato per lacciare la catena, sì, ay, ay, ay. Siamo nella rivolta, sì, ay, ay, ay. E per cambiare tutto, in tutto il Cile, e Roma è presente, noi siamo mille, sì, ay, ay, ay. E per cambiare tutto, in tutto il Cile, sì, ay, ay, ay. Noi siamo mille, ay, sì, in primavera, fiori di ribellione, il fiore vera, sì, ay, ay, ay. Stiamo tornando sulla strada.